sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nucleare, la sfida di Teheran al via l'arricchimento dell'uranio. Ucraina, la Timoshenko attacca, non riconosco la vittoria di Yanukovych. Toyota, ferme le ibride negli Stati Uniti, coinvolte anche le Lexus. Non si placano le polemiche sulla giustizia, le dichiarazioni di Ciancimino. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi e dalla redazione di Radio 24, il sole 24 ore. L'Iran ha iniziato questa mattina le operazioni per l'arricchimento dell'uranio al 20%. Alle operazioni assistono anche ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale. Preoccupata la comunità internazionale che da anni dubita della natura del programma nucleare iraniano. L'interesse di Teheran per il nucleare risale agli anni 70, ai tempi quindi dello Shah Reza Pahlavi. Fu allora che si iniziò la costruzione delle centrali di Bushehr nel nord del Golfo Persico. I lavori furono interrotti durante la guerra con l'Iraq e ricominciarono solo negli anni 90, grazie a intese con Cina e Russia. E sono tuttora in corso. Ma intanto l'Iran si è attrezzato per l'estrazione e la lavorazione dell'uranio, ha due impianti per il suo arricchimento e un reattore ad acqua pesante, tutte dotazioni ad uso civile, ma che possono avere anche un risvolto militare. E la segretezza con cui negli anni ha lavorato Teheran ha sempre sollevato molti dubbi. Così dal 2003 l'Agenzia Atomica Internazionale ha iniziato a ispezionare il paese e nel 2007 il club dei 5+1, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, ha imposto le prime sanzioni. Infine, come forma di controllo, all'Iran è stato proposto di arricchire all'estero l'uranio che gli necessita a scopi civili. Teheran oggi accetta e domani no. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Sempre gli esteri, nonostante il consenso degli osservatori internazionali, la premier filo-occidentale Timoshenko ha deciso di non riconoscere la vittoria del leader filo-russo Yanukovych nel ballottaggio di domenica delle elezioni presidenziali ucraine e annuncia dunque battaglia. Lo scenario più temuto si sta avverando. Yulia Timoshenko non riconosce la validità delle elezioni presidenziali ucraine e darà battaglia in tribunale per dimostrare che la vittoria di Viktor Yanukovych è stata ottenuta con la frode. Dopo una riunione del partito che sembra sia stata tempestosa nella notte, la signora Timoshenko ha ottenuto l'appoggio dei suoi e ha dato incarico ai legali di prepararsi a provare l'invalidità di almeno 1,5 milioni di schede. Finora il vantaggio di Yanukovych su di lei è di 883.000 voti. Proteggeremo in tribunale il diritto dei cittadini a elezioni oneste e trasparenti, ha detto in Parlamento un deputato del blocco Timoshenko, malgrado le operazioni di voto abbiano avuto il pieno consenso degli osservatori internazionali. Yulia, secondo fonti del partito, intende chiedere un terzo round di votazioni. Il grande interrogativo ora è capire quanti elettori, stanchi di battaglie giudiziarie e di faide politiche, sono disposti a seguirla. Antonella Scott, GR24, sulle 24 ore, Kiev. La Toyota ha fatto il punto sul ritiro di auto in tutto il mondo. Oggi il gigante giapponese ha annunciato il richiamo di alcune migliaia di auto ibride. Sono oltre 400.000 le vetture ibride vendute dalla Toyota che necessitano di interventi correttivi al sistema frenante. Questa volta è stato lui in prima persona, il direttore generale Akio Toyoda, ad annunciare ufficialmente il richiamo per riparazione al sistema frenante di 223.000 vetture ibride in Giappone, un'operazione che avrà un seguito anche in America, in Europa e su altri mercati per un totale superiore a 400.000 esemplari. Il richiamo inizia domani in Giappone e riguarderà non solo le Prius di ultima generazione, comprese le Prius plug-in, ossia ricarica elettrica facile, ma anche altri due modelli, l'ibrida di alta gamma Lexus HS250H e la Sai, una ibrida compatta venduta per ora solo in Giappone, quando all'Europa e agli Stati Uniti i richiami avverranno quanto prima possibile. In una conferenza stampa a Tokyo, Toyota e il responsabile della qualità Sasaki hanno spiegato che si sono resi necessari interventi al software del sistema ABS per evitare un potenziale funzionamento difettoso leggermente ritardato in condizioni stradali scivolose e a velocità relativamente bassa. Si tratta di un ulteriore danno d'immagine per la casa giapponese che ha costruito le sue fortune su una reputazione di qualità, mentre è già in corso il richiamo di oltre 8 milioni di vetture su automodelli per problemi al pedale dell'acceleratore. In Italia Toyota sta già richiamando 260.000 vetture a partire da questa settimana. Intanto negli Stati Uniti si moltiplicano i problemi per la società. Hanno cominciato a citarla in giudizio per danni non solo aiutare i proprietari di auto, Prius comprese, ma anche gli azionisti, con un'azione collettiva in California in cui accusano Toyota di informazioni fuorvianti e tardive al mercato. Stefano Carrer, Gela 24, Sole 24 Ore, Tokyo. L'euro continuerà a costituire uno strumento di sviluppo importante. Chi pensa che possa essere rimesso in discussione sarà smentito. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Barroso all'Europarlamento, che oggi voterà sul nuovo esecutivo. Veniamo alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Berlusconi su Eluana. Dolore per non aver evitato la morte di Eluana. Berlusconi ha rilanciato la polemica ad un anno dalla morte della Englaro, parole in sintonia con l'editoriale dell'Avvenire, che definisce innaturale e terribile anche solo pensare di lasciare andare alla deriva una persona totalmente disabile. Berlusconi nel suo messaggio non si rivolge al padre della ragazza, ma alle suore della clinica Talamoni, dove Eluana restò ricoverata per 14 anni. Per loro ha parole di ringraziamento per l'impegno costante a favore di chi soffre. E sempre la politica: non si placano le polemiche sulla giustizia, sulle dichiarazioni di Ciancimino che tirano in ballo Forza Italia. In diretta dalla Camera, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una bufala, lo Stato Maggiore del PDL liquida così le parole di Ciancimino Junior, secondo cui Forza Italia sarebbe nata dalla trattativa tra Stato e mafia. Berlusconi indignato ancora tace, ma fa parlare i suoi fedelissimi che non risparmiano attacchi alla magistratura. Il coordinatore del PDL Bondi parla di giudici sprezzanti della verità, il portavoce Capezzone di credibilità che crolla, mentre il presidente dei senatori PDL Gasparri chiede che la magistratura faccia controlli attenti per evitare che la calunnia ostacoli la vera lotta alla mafia. Diversi invece i registri usati dall'opposizione, cioè la prudenza del Partito Democratico che anche oggi con la Presidente dei Senatori Finocchiaro invita a lasciar lavorare la magistratura, cioè il sostegno al Premier da parte di Casini, perché dice il leader UDC ritenere che Forza Italia sia un prodotto della mafia vuol dire falsificare la realtà. E infine c'è il duro affondo dell'Italia dei Valori che con Di Pietro accusa il governo di essere non solo piduista e fascista ma anche paramafioso. E da Montecitorio è tutto, a voi la linea. Sì, grazie. Naturalmente terremo alta l'attenzione anche su questa polemica politica. E che cos'è questo archivio di cui parla il figlio dell'ex sindaco palermitano? Mio padre era uno maniacale, annotava tutto quello che era la sua giornata, dalla pressione sanguigna alle visite dei carabinieri che lo controllavano. Una grafia precisa e quasi un po' infantile. Le carte di Don Vito sono state custodite a lungo in una cassetta di sicurezza in Liechtenstein. Altre riempivano una serie di trolley messi in fila nel soppalco di casa dell'ultimo figlio. Quando Massimo Ciancimino parla, sono gli appunti del padre, la sua fonte e il suo punto di riferimento. Quegli appunti che prima della morte dell'ex sindaco mafioso di Palermo aveva cominciato a sistemare. Questa documentazione famigerata, per cui appunto questo famoso papello, è il frutto di una volontà mia e di mio padre nel raccogliere informazioni cartacee su quello che doveva essere la struttura di un'eventuale pubblicazione. Perché doveva intitolarsi questo libro? Ma la prima domanda che ora tutti si fanno è: perché solo ora sta tirando fuori tutto questo? Dipende dal suo processo per riciclaggio? Io non sto parlando, io rispondo solo alle domande dei PM, chiarisce Ciancimino Junior, secondo cui i magistrati che non l'avevano mai interrogato fino ad ora su questi temi si ricordarono di lui solo dopo un'intervista nel 2007 a Panorama, in cui tirava fuori la trattativa e difendeva in realtà, come aveva raccontato a Radio 24, il Premier. Ho avuto fatto un'intervista a un giornale che appartiene alla famiglia del dottor Berlusconi, dove ho detto chiaramente che mio padre non pensava di coinvolgimenti diretti. Chi più di lui oggi deve volere chiarezza su quegli anni, visto che da anni erge un alone misterioso sul modo in cui è nato Forza Italia. Raffaella Calandra, GR24, Sole 24 Ore. E restiamo sulle questioni legate alla mafia con i beni confiscati. Da Villa del Boss a Giardino della Legalità. Questo il destino della casa di Felice Maniero, boss della malavita veneta dagli anni Ottanta, che su iniziativa dell'associazione Affari Puliti sarà da oggi a disposizione della popolazione veneziana come spazio didattico e culturale. Così accade per il 73% dei beni confiscati alla mafia, che secondo una ricerca presentata ieri dall'Agenzia per le Onlus, nel 40% dei casi vengono affidati ad associazioni, nel 27% a cooperative e nel 18% a enti o istituzioni. Perché non tornino in mano delle cosche basta volerlo, spiega Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna e alla Bocconi di Milano. Il rischio virtuale può esserci, ma nella redazione delle regole dei capitolati di gara per la vendita dei beni ci sono i modi oggi tecnicamente possibili per evitare che questo avvenga, perché basta mettere delle clausole tali da impedire che questo avvenga. Il vero problema, sottolineano gli esperti, è invece che a volte le stesse associazioni e cooperative che ottengono l'uso dei beni confiscati alla mafia non hanno poi i fondi per restaurare gli immobili o lanciare le proprie attività. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Di politica e complotti si è occupato il nostro sondaggio. La D'Addario manovrata da qualcuno. Tangentopoli, c'era la CIA dietro al PM Di Pietro. L'aggressione a Berlusconi in Piazza Duomo, una pantomima. Per non parlare dell'11 settembre o dell'intramontabile omicidio Kennedy, un complotto non si nega mai per niente e per nessuno. Ma davvero siamo un paese di complottisti, sempre alla ricerca di chi muove i fili misteriosi dietro una realtà apparente? Il 67% di voi nel sondaggio di oggi risponde no. Per Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, la mania del complotto nasce anche dalla sfiducia diffusa verso le istituzioni. Le istituzioni sono cattive, sono ingannevoli, sono mendaci, ciò che dicono non è mai vero. Dal momento in cui si parte con questo tipo di premessa è inevitabile che si finisca per immaginare il peggio. Bianco Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora ci fermiamo con la viabilità e tra poco riprendiamo il filo con Termini Imerese, con la vicenda di 15.000 militari britannici, americani, afghani che stanno per lanciare un'offensiva contro i talebani in Afghanistan. Molte pagine di cronaca, di maxi operazione dei carabinieri in varie parti d'Italia, sia sul fronte della droga, della prostituzione, che sul fronte ecologico, la Biennale del Design a Venezia anziché a Milano, la protesta dei tifosi del Napoli rispetto a Pierluigi Collina. Sono le 13:16 minuti e state ascoltando il giornale di Radio 24. Nella prima parte i quattro titoli forti: nucleare, la sfida di Teheran al via l'arricchimento dell'uranio, poi l'Ucraina con la Timoshenko che attaccano, riconosco la vittoria di Yanukovych, con Toyota, con le ibride negli Stati Uniti che sarebbero ferme, coinvolte anche le Lexus, mentre non si placano, anzi sono sempre più forti le polemiche sulla giustizia, sulle dichiarazioni di Ciancimino. In apertura della seconda parte del nostro giornale radio abbiamo Vincenzo Miglietta, perché alcuni dei punti chiave rimasti ancora aperti riguardano il lavoro, l'occupazione, in primis la vicenda di Termini Imerese. Sì, buongiorno. Mondo del lavoro ed occupazione ancora al centro della politica economica del governo. Il nuovo incontro su Termini Imerese si terrà il 5 marzo. Sono una decina per il momento le proposte già arrivate al Ministero per lo Sviluppo Economico e che sembrano possano assicurare un futuro al polo produttivo siciliano. La vicenda Fiat Termini Imerese approderà intanto la prossima settimana, forse mercoledì 17 in Parlamento. Sarà l'aula di Palazzo Madama ad affrontare il tema. Si parlerà del destino degli stabilimenti del Lingotto e della produzione auto, ma anche del capitolo incentivi. Gli aiuti al settore auto potrebbero però essere già domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Uno dei nodi tecnici da sciogliere sarebbe quello delle risorse disponibili e non è escluso che il tema si affronti oggi in un vertice tra i ministri Scajola e Tremonti. La bozza allo studio prevederebbe comunque il dimezzamento del contributo concesso lo scorso anno. La giunta siciliana ha confermato intanto l'impegno di investire circa 350 milioni di euro per le infrastrutture nel sito industriale di Termini Imerese. Da Roma è tutto. Bene, grazie, grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Andiamo a Kabul o comunque in Afghanistan, dove le forti nevicate negli ultimi giorni hanno provocato valanghe, ci sarebbero 60 persone intrappolate, moltissime vittime, e siamo nel nord dell'Afghanistan, una situazione che si è fatta particolarmente drammatica. Fuori e dentro i tunnel costruiti nel 1964 dai sovietici a 3.400 metri di quota. Qui che centinaia di auto, autocarri sono rimasti bloccati. Squadre di soccorso civili, militari sono arrivate sul posto riuscendo a trasferire al sicuro almeno 1.000 persone, ma ci sono moltissime decine di persone che sarebbero morte assiderate. Intanto 15.000 militari britannici, americani e afghani stanno per lanciare in queste ore un'offensiva contro i talebani nella città di Majia, nel sud dell'Afghanistan, la provincia del Helmand. La città è da tempo considerata la Fallujah talebana, da quasi 2 anni sotto il controllo degli insorti. La notizia è stata anticipata dal sole24ore.com in un servizio di Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, che sentiamo ai nostri microfoni. Marja è la città più importante, il centro afghano più importante tra quelli ancora saldamente nelle mani dei talebani. Occuparlo, strapparlo agli insorti ha un doppio significato per le truppe alleate, ma anche per il governo di Kabul. Da un lato dimostrare la forza militare sufficiente a vincere la guerra e dall'altro indurre probabilmente in seguito a una vittoria schiacciante la gran parte o buona parte dei talebani a negoziare la pace con Kabul. Il fatto che sia stata annunciata in anticipo, ecco, questa operazione dà un certo vantaggio ai talebani per organizzarsi. Sul piano militare l'operazione preannunciata già il 4 febbraio ha consentito e consente ai talebani di prepararsi per tempo a questo attacco. Del resto, in questa guerra, come anche in altri conflitti, l'aspetto militare non è sempre prioritario. Il comandante delle truppe alleate, il generale McChrystal, ha messo infatti in testa le sue priorità la salvaguardia dei civili. In questo modo, dando informazione preventiva dell'offensiva, si spera che molti civili possano sottrarsi ai combattimenti. Già ci sono segnali di migliaia di civili che stanno scappando verso la Skarga. La pagina della cronaca: Umbria, Campania, Toscana sono le regioni dove i carabinieri hanno eseguito oggi una vasta operazione contro il traffico di droga e di prostituzione. Sentiamo i particolari in questo servizio. 85 ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, disposte dalla Procura distrettuale antimafia del capoluogo umbro. 60 sono già state eseguite dai ROS dei carabinieri a partire dalla notte scorsa tra Campania, Toscana e Umbria. Al centro delle indagini tre sodalizi criminali di matrice prevalentemente albanese. Carlo Corbinelli, comandante provinciale dei carabinieri di Perugia. Il primo di questi sodalizi si occupava principalmente di narcotraffico, approvvigionando ingenti partite, ingenti quantitativi di droga sia dall'Olanda che dal Belgio, come pure dalla penisola balcanica, ed aveva anche tra le proprie attività, oltre al traffico di sostanze stupefacenti, anche lo sfruttamento della prostituzione. Le altre due bande smistavano il flusso di droga che arrivava in Umbria, rifornendo gli spacciatori e il giro dei locali notturni. Il vice comandante dei ROS, il generale Parente, ha sottolineato che si trattava soprattutto di albanesi con regolare permesso di soggiorno e ben integrati. Beatrice Vergari, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Ed un traffico illecito di rifiuti con arresti in varie regioni per due grandi operazioni dei carabinieri del NOE, nucleo operativo ecologico. Rifiuti speciali, anche pericolosi, provenienti dalla bonifica del sito contaminato di Bagnoli nel Napoletano, venivano smaltiti illecitamente in Toscana, dove nel 2008 provocarono anche un'esplosione che costò la vita a un operaio. È quanto emerge dall'operazione coordinata dalla Procura di Grosseto e condotta dai carabinieri del NOE. L'organizzazione, con base in Toscana e diramazione in tutta Italia, gestiva un traffico di rifiuti da 1 milione di tonnellate e milioni di euro. 61 le persone denunciate, 15 quelle arrestate, legate a vario titolo alle società coinvolte, per accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti all'associazione a delinquere fino all'omicidio colposo. Il traffico si basava su una sistematica falsificazione di certificati di analisi, formulari di identificazione e registri di carico e scarico. 8 arresti e 23 indagati anche in Abruzzo in relazione all'inchiesta della Procura di Lanciano, che ha messo in luce, anche in questo caso, il coinvolgimento di numerosi impianti di gestione rifiuti, trasportatori, intermediari, imprenditori, laboratori di analisi e di scariche, con la complicità inoltre di alcuni agenti della polizia provinciale che rilasciavano attestazioni di comodo. Maria Luisa Pezzali, GR24 Il Sole 24 Ore. Una biennale del design a Venezia oppure a Milano? Polemiche dopo la proposta già sul tavolo del Ministero dei Beni Culturali. Follia senza senso, tentato scippo, normale concorrenza. Queste alcune delle espressioni emerse dalla polemica scatenata dalla proposta di realizzare una biennale del design a Venezia. Proposta fatta dal Consiglio Italiano del Design dei Beni Culturali al ministro Bondi e per la quale a partire dal 2011 la città lagunare potrebbe diventare così la nuova protagonista del design, togliendo la palma a Milano, da più di 50 anni capitale mondiale del design e tempio indiscusso del Salone del Mobile. Il dibattito si è fatto subito acceso. Per il presidente del COSMIT, Carlo Guglielmi, si tratta di un'idiozia, mentre per l'assessore alla moda e al design del comune di Milano, Giovanni Terzi, si tratta di una scelta sbagliata e di un tentato scippo da sventare in tutti i modi. Per Luisa Bocchietto, presidente dell'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale, concorde nel riconoscere a Milano la sua lunga tradizione di punto nevralgico del design, andrebbe risolta però anche un'altra questione. Io lavorerei per valorizzare Milano. Poi, da parte mia, essendo presidente dell'ADI e avendo l'ADI e questa collezione del Compasso d'Oro che da moltissimi anni non trova ancora un luogo per essere esposta e costituire quindi un'attrazione turistica del territorio oltre che culturale, imprenditoriale eccetera, lancio un appello perché se Milano vuole rimanere il centro del design dovrebbe davvero valorizzare di più questi patrimoni, questi beni che ha accumulato nel tempo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Tutti allo stadio con la maschera di Pierluigi Collina. E questa è la provocazione dei tifosi del Napoli che protestano contro gli arbitraggi degli ultimi conti. La squadra, dicono, è sempre penalizzata. Non è tanto l'amarezza del 3-1 subito contro l'Udinese che sta scatenando l'ira dei tifosi partenopei. Piuttosto a Napoli la rabbia cresce contro l'arbitraggio, colpevole di troppi errori che penalizzano la squadra, secondo i sostenitori azzurri. E così il fischietto dell'arbitro D'Amato di Barletta, che ha diretto l'ultimo incontro, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dalla curva si vuole dare un segnale e i tifosi sono disposti a metterci la faccia. Non la loro, però, quella del fischietto d'oro Pierluigi Collina. L'idea è partita da un tam-tam in rete. Domenica prossima, al San Carlo contro l'Inter, tutti in curva con una maschera dell'arbitro Viareggino. La provocazione arriva dal blog azzurrissimo.it curato dal giornalista Rai Antonello Perillo. Gli arbitri stanno sbagliando, ma io sono convinto, convintissimo che non ci sia nessun complotto, nessuna volontà di affossare il Napoli. Mascherati da Collina perché il designatore arbitrale Collina è originario, è nato a Bologna ma è viareggino di adozione e a Viareggio il carnevale è un culto, quindi lui non può prendersela male. L'ironia partenopea arriva fino alle istruzioni per l'uso: stampare dal sito il disegno del volto di Collina, ritagliarlo e la maschera è pronta. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Pensavamo che fosse uno sport nazionale molto calcistico contestare gli arbitri, a quanto pare non è così. Proteste arbitrali, dossier fitti di presunti torti da spedire a commissioni ad hoc, dichiarazioni di fuoco davanti ai microfoni spianati. No, non è l'abituale post partita della solita domenica di calcio in Serie A. Stiamo parlando, udite udite, del Sei Nazioni di rugby, uno dei riti più puri della palla ovale, dove si sgomita e si placca più non posso, ma senza mai discutere le decisioni dell'uomo col fischietto. Tabù infranto quest'anno, perché alle consuete lamentele del 15 italico, saremo scarsi, è vero, ma pure poco tutelati dagli arbitri internazionali, si sono aggiunte quelle niente popò di meno che della grande Francia e addirittura dopo una vittoria a Edimburgo contro la Scozia. L'arbitro Nigel Owens è stato troppo severo con noi, ha smoccolato il CT transalpino Marc Levermont. Manderemo un nostro dossier al capo della commissione arbitrale. Musica per le orecchie dei tifosi del calcio nostrani, pronti ora a discutere al Bar Sport con i fan della palla ovale. Fino all'ennesimo discutibile fischio arbitrale, fino a quell'ultima sporca moviola. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Il racconto delle notizie principali secondo Radio 24 termina qui. Le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.